Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane, adesso dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, eccoci qua in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, programma è Zardins Magnetics e andrà avanti fino alle ore 21:30. Quella che abbiamo ascoltato era la sigla. Stiamo trasmettendo dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. Ma ora andiamo all'ascolto di questa del prossimo disco che andremo ad ascoltare. Loro sono i Drumspell ed è una band di Roma e questa è la loro prima uscita discografica su vinile dal loro LP Barbarie Future, uscito nel 2020. Drumspell. We'll be right back. un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatori che ascoltano Radio Onde Furlane, un saluto a tutti e tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori su in streaming. Un grazie a Radio Onde Furlane ci ospita, Zardins Magnetics, come già stato detto, trasmissione autogestita a cura realizzata a cura insomma dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di questo giovedì 13 aprile 2023. Sono le, appunto, siamo in diretta, sono le 20:17 e vi vado velocemente solo a così anticipare un po' i contenuti che ci saranno questa sera, che cercheremo di così di così esporre questa sera. Allora, avremo un contributo prendendo spunto da un lavoro, una ricerca, un testo insomma uscito sul numero 67 di Nunatak, della rivista Nunatak, Il Monte Solitario e la vita sociale senza lo Stato, omaggio a Berivan Sengal, una combattente delle forze di autodifesa del popolo, sì, della Confederazione Curda, caduta appunto in combattimento nel 2015. Successivamente ci sarà la presentazione di un paio di iniziative che avremo a Udine, sempre allo spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine. Questa settimana avremo sabato e martedì due iniziative antimilitariste e antiautoritarie, di cui andremo insomma poi a sviscerare un poco, e direi che possiamo partire con un'altra po' di musica. Sì, e mandi anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori anche da parte mia, e saluto anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radiazione, no? Che ci ascolteranno domani, venerdì. Allora, iniziamo con questo omaggio a Berivan Sengal, giovanissima combattente Ezida, morta appunto a causa di un bombardamento turco, a soli 15 anni. E, allora è un omaggio particolare perché ci saranno delle parti, diciamo così, storico-teoriche che sono anche importanti per riprendere un po' il discorso della, dell'autogoverno delle comunità curde ed ezide, e però c'è anche una parte proprio più, diciamo, personale, un ricordo preciso della persona che è, secondo me sì, è altrettanto importante, perché comunque ha, ha un approccio, è un modo di ricordare, insomma, significativo. E, partiamo appunto da, questa, da questo articolo che è comparso, come ha detto chi mi ha preceduto, sulla rivista Nunatak, rivista di storia, cultura e lotte della montagna, sull'ultimo numero. Questo omaggio a Berivan Şengal è anche un'occasione per appunto riparlare dello scenario siriano, dove da più di 10 anni si intrecciano rivolte e guerre civili, e dove il vuoto di potere si è fatto opportunità, appunto opportunità di distruggere lo Stato, distruggere il capitalismo e ricreare una nuova forma di vita comune. E è anche un'occasione per riparlare del popolo esida, che è un popolo, una minoranza nella minoranza, diciamo, è pochissimo conosciuto, anzi è stato misconosciuto e anche ha subito ben 74 genocidi. Praticamente ogni generazione di ezida ha provato sulla sua pelle che cos'è un genocidio. L'articolo su Berivan si intitola appunto Şengal, il monte solitario, e nasce proprio in questo esperimento, diciamo, di autogoverno che è stato messo in atto dal popolo esida dopo l'agosto del 2014, cioè quando c'è stato questo sterminio della popolazione esida. Minoranza nella minoranza, il popolo esida ha saputo fare del proprio territorio un bastione di resistenza e della propria marginalità un'arma di emancipazione. Quindi ci dice delle cose interessanti anche riguardo alla nostra condizione di marginali, che però possiamo utilizzare questa nostra marginalità e anche questa nostra assenza dai luoghi del potere per appunto liberarci ed emanciparci e vivere come vogliamo. L'esemplarità dell'esperienza appunto del popolo esida è stata proprio quella di aver saputo ricollegarsi alla propria millenaria tradizione, che è astatale, cioè sono sempre stati un popolo senza stato, non hanno mai avuto uno stato, nemmeno una parvenza di organizzazione statale. E però questa riconnessione, diciamo, con questa millenaria tradizione non ha ceduto a nessuna chiusura identitaria. Quindi, parlando anche poi da Radio Onde Furlane, quindi anche da un emittente che ha a cuore il discorso delle nazionalità e delle culture minorizzate, dei popoli minorizzati, e questa parlare appunto di Berivan Şengal è un'occasione anche per riparlare della identità locale, della tradizione. Ci dicono appunto i compagni di Nunatak che sia l'identità locale che la tradizione sono cose vive, cioè non sono pezzi, diciamo, di antiquariato o cose di questo tipo, ma sono cose vive da vivere, quindi sulla propria pelle, valorizzandone gli aspetti solidali e liberatori e rifiutando quindi di consegnarle, sia l'identità locale che la tradizione, a chi invece strumentalmente ne esalterà gli aspetti più retrogradi, bigotti, patriarcali. Anche qua da noi ne sappiamo qualcosa, che pure però questi aspetti qua ci sono, insomma, ed è bene saperlo e non nasconderselo. Ci scrivono appunto i compagni nell'editoriale di questo ultimo numero di Nunatak, dicono: l'identità locale ci determina almeno quanto noi contribuiamo a determinarla. La tradizione è al tempo stesso un arsenale e un campo di battaglia. Ecco, questo come premessa. Magari ascoltiamo ancora un pezzo e poi entriamo in merito alla storia di Berivan. Agosto 2014, l'ISIS ha attaccato Shengal, la regione vicino alla città di Mosul, dove vivono gli esidi della montagna. Quella mattina i figli del fuoco e del sole non videro l'alba. Quel giorno non recitarono la preghiera del mattino. Oh mio potente Dio, proteggi i popoli di tutto il mondo dal male e dalle disgrazie e non dimenticarti di noi. Per non cadere nelle mani dell'ISIS, decine di migliaia di esidi che vivevano nella città di Shengal e nei villaggi circostanti si riversarono nel deserto sulla strada verso la montagna. Decine di bambini, anziani e malati rifugiatisi sul monte Shengal morirono per la sete e per il caldo. L'ISIS ha ucciso circa 5.000 esidi e fatto prigioniere migliaia di donne e bambini, rapite e usate come schiave del sesso e come soldati. Ancora oggi non si sa dove siano. Le famiglie eside in lutto, che cercano i loro figli dispersi in tutto il mondo, tentano con scarsi mezzi di curare le ferite sanguinanti del genocidio. Tante e tanti, come Shahid, che significa martire, Berivan Shengal, hanno deciso di lottare per la dignità e la libertà degli esidi di Shengal. Il 3 agosto del 2014 Berivan aveva 14 anni. Fu tra le migliaia che rimasero intrappolate sulle montagne senza cibo né acqua. È sopravvissuta e ha deciso di guidare le donne eside verso la liberazione. È rimasta sulle montagne insieme alla sua famiglia, poi ha radunato altre ragazze eside per andare sui monti di Kendil. Lì voleva prepararsi per tornare a Shengal e costruire insieme alle sue amiche l'avanguardia delle donne. Ha studiato, imparato a difendersi. Quando è entrata nel PKK ha parlato a nome di chi, come lei, era stata tradita e venduta. Oh, Noi, donne eside, credevamo che i peshmerga ci avrebbero difese, ma abbiamo visto cos'è la forza degli uomini e cos'è la forza delle donne. Siamo qui per prepararci a vendicare le donne eside. Berivan è stata uccisa da un bombardamento turco prima che riuscisse a tornare, ma ha ispirato la nascita delle unità delle donne di Shengal, che oggi studiano in una accademia ideologica fondata in sua memoria. Ecco, per scrivere questo articolo, questo ricordo, il compagno di Nunatak, Pepi, si è rifatto, diciamo, letto e così ha rielaborato alcune cose di un libro di Roy Bing Beritan e Chiara Cruciati che si intitola La montagna sola, che appunto parla di questa esperienza di autogoverno esida. In questo articolo ci sono anche degli estratti del libro, insomma, che parla in maniera molto dettagliata. Appunto Pepi ci dice che questo ricordo di Eval Berivan, della sorella Berivan, nasce innanzitutto dalla sua esperienza personale, perché lui ha vissuto dei mesi insieme anche a Berivan, insomma, e ad altri compagni, ma non solo. Ci dice Pepi, per quanto breve sia stata la sua vita, il suo ruolo in questa storia è enorme. Il suo tragitto dai monti di Shengal a quelli di Kendil e ritorno, anche se fisicamente il ritorno non c'è mai stato, si può dire che incarni il tragitto dell'intero popolo esida. Un tragitto di riscossa, faticoso, pieno di cadute e di riprese, pieno di nemici e di sofferenze, ma anche di coraggio e dignità. Sulla montagna liberata dalla guerriglia, le frontiere sono di fatto abolite, permettendo ai curdi e alle curde di ritrovare l'unità spezzata dai confini statali. Anche in questo sta la centralità delle montagne, non solo rifugio e retrovia tattico per la guerriglia, ma anche laboratorio di una nuova società, territorio libero dove sperimentare fin d'ora una vita libera dallo Stato, dal denaro, dalle imposizioni del capitalismo e del patriarcato. Terreno in cui smettere di rimandare la rivoluzione all'indomani e incominciare a viverla qui e ora. E poi appunto c'è questa parte di ricordo molto personale. Non riprendere il Kalashnikov, se no poi dicono che il PKK usa i bambini soldato, scherzava quando qualche compagno faceva delle foto. Scherzava come sempre, ma neanche troppo. Ma sì, tanto lo dicono comunque. Aveva 15 anni, Eval Berivan, quando l'ho conosciuta. Era l'inverno 2014-2015 sui monti Kendil, roccaforte del PKK in Sud Kurdistan. Coi suoi 15 anni era la più giovane del campo, tutti gli altri ne avevano un minimo 18, è la regola per i combattenti. Ma Berivan non era lì per combattere, non ancora, era lì per imparare a farlo. Me lo ha raccontato lei come c'era finita, piano piano che col curdo faceva un po' fatica. E un'altra lingua comune non ce l'avevamo. L'aveva presa come una missione, mi sembrava. Io ti aiuto a imparare il curdo e tu mi aiuti a ripassare, mi diceva, perché lei studiava di brutto. Tutte le mattine libri di storia, politica, libri di Öcalan, racconti, poesie curde. E nel pomeriggio ci prendevamo una mezz'ora e se io mi defilavo lei mi veniva a cercare. Lei mi ripeteva quello che aveva imparato la mattina. Io facevo esercizio con il curdo tutti i pomeriggi con una serietà e una disciplina implacabili. Lei, io un po' meno. È così che tra una lezione e un'altra mi ha raccontato, tranquilla e implacabile, come sempre, qualche mese prima i miliziani di Daesh avevano fatto irruzione nel suo villaggio Esida, ai piedi del Monte Shengal, dall'altra parte del nord Iraq. Aveva visto le sue compagne di classe trascinate fuori, bastonate, stuprate, caricate sui pick-up e portate via, date in sposa a qualche miliziano oppure vendute come schiave al mercato di Mosul. Si saprà dopo. Lei era riuscita a fuggire insieme ad altri verso la montagna. Da lì, alcuni guerriglieri del PKK, pochi e male armati, erano riusciti a bloccare i miliziani e ad aprire un corridoio sicuro verso Rojava. Mentre coloro che avrebbero dovuto difenderli, i militari iracheni e i peshmerga di Barzani, erano scappati e si erano pure portati via le armi. Non voglio mai più scappare, è per questo che sono qui, per imparare a combattere. Semplice, invece di stare a marcire in un campo profughi, Berivan aveva voluto seguire quei guerriglieri e quelle guerrigliere. Solo una volta l'ho vista cedere, per una cosa che ho fatto fatica a capire. Chiacchieravamo con altri compagni quando uno di loro ha nominato Satana, una parola uscita così per caso nel mezzo di un discorso. Non si parlava né degli esidi né tantomeno di lei, ovviamente. Berivan si è alzata e se n'è andata, con le lacrime agli occhi. E Valdi Divar, il compagno che stava parlando, si è messo le mani nei capelli come a dire che cazzo ho combinato. Ha chiesto scusa a tutti e le è corso dietro per parlarle. Io mi sentivo un coglione di nuovo, mi guardavo intorno senza capire. Solo dopo mi hanno spiegato e ho capito che non sarei mai arrivato veramente a capire. Berivan non si era offesa, era scattata come per un istinto. Quanto a fondo può scavare la violenza dell'umiliazione fin dentro le viscere di una persona? Quanto a fondo può radicarsi il terrore nell'inconscio di un intero popolo? Berivan non era una bambina spaventata, tutt'altro, era una combattente come non ne avete mai viste, ve lo assicuro, sveglia, attenta, con una forza dentro che avrebbe spaccato il mondo. Ma è come se ogni singolo esida vivesse nel proprio corpo uno stigma talmente profondo che è diventato la sua identità. Abbiamo vissuto 74 massacri, raccontano sempre per spiegare chi sono. 74, può sembrare un numero qualsiasi. Ma pensiamoci, vuol dire che ogni singola generazione di esidi ha subito un tentato genocidio. Da quando esistono, ogni singolo esida ha perlomeno una figlia, un figlio, un genitore, un amico, un'amica, massacrati dalle genti che vivono intorno a loro, per le quali sono adoratori di Satana, e ucciderli è un modo per andare in paradiso. Perciò pronunciare la parola Satana è un tabù. Perciò anche solo sentirla pronunciare è una coltellata in una ferita che non si rimargina mai. Berivan non ha fatto in tempo a tornare al suo villaggio. L'ho saputo l'anno dopo proprio da Roy Bing, l'amica che ha scritto La montagna sola. Eravamo in montagna, stavolta sulle Alpi. So che eravate amici, ho visto le vostre foto insieme, non l'hai saputo? No, non l'avevo saputo. Berivan è stata uccisa in novembre a 15 anni sulle montagne del suo Kurdistan da un bombardamento dei soldati turchi, infami, maledetti. Ma la storia non finisce qui, la tradizione epica orale è ancora viva e vegeta tra gli esidi, è la loro storia mitica. A differenza della storia ufficiale, il mito è vivo, cambia, soffre, combatte insieme al popolo di cui è voce. Resistenze, tradimenti, passioni, vendette passano di bocca in bocca e costruiscono l'identità di un popolo. Come ho già detto, non pretendo di capirci molto, ma di una cosa sono certo. Berivan oggi è lì, sui monti di Shengal. Berivan si è conquistata un posto da protagonista in quel mito. Il suo martirio è diventato un simbolo per tutti gli esili liberi e non solo per loro, affinché nessuno debba più vivere un'identità fondata sullo stigma e la paura, affinché sempre più popoli possano riscrivere le proprie identità nella fratellanza e nella rivolta. Stiamo ascoltando adesso in sottofondo, ma abbiamo anche ascoltato in precedenza, questa band di Torino. Loro sono i No Info e questo è il loro primo album, uscito nel 2002, Out of Setting. Comunque band che si è sciolta dopo un successivo album nel 2003. No Info. We'll be right back. Ancora in voce qui da Zardins Magnetics, trasmissione che va in onda tutti i giovedì da Via Volturno a Udine, va in onda nel senso che trasmettiamo da qui. E, dicevamo prima, ci saranno due importanti iniziative nel nostro Friuli, nella capitale qui a, qui a Udine. Udine, dove abbiamo la sede allo spazio autogestito via De Rubeis 43, zona stazione. Dunque, ci sarà sabato 15 aprile nel pomeriggio a partire 17:30 un'iniziativa, una presentazione su Nel vortice della guerra, che è una pubblicazione di cui si parlerà fra pochi minuti. Invece martedì 18 alle ore 18, 18 aprile, una data fatidica, e, saranno a Udine i curatori della rivista anarchica I giorni e le notti, di cui qui si è parlato diverse volte, abbiamo svariate volte sviscerato articoli, approfondimenti, eccetera eccetera, contributi che venivano da quella rivista. La rivista appunto è, compare nel 2016-2017, più o meno ne uscivano tre all'anno, fino appunto a quando la redazione è stata decimata dagli arresti e da rogne varie, e quindi ha cessato, ha sospeso le pubblicazioni nell'estate 2021. Proprio dal 2021, appunto, dove eravamo rimasti, era il momento, se insomma non serve una grande memoria per ricordarselo, eravamo in piena vaccinazione, in pieno momento insomma l'esperimento Green Pass eccetera eccetera. Proprio da questa tematica prenderanno spunto i compagni per un dibattito, una discussione. Qui siete tutti invitati martedì, ripeto, insomma, su che cosa? Sulla questione della svolta ipertecnologica data appunto da questa torsione qui in primo momento del Covid e poi della sperimentazione del virus mRNA, cioè più virus, scusatemi, dei farmaci a mRNA e a DNA ricombinante, che poi l'hanno chiamato vaccino antinfluenzale. Questa sperimentazione poi ha portato a ulteriori sperimentazioni di massa, no? Ha portato a ulteriori svolte, appunto, digitalizzazioni, insomma, in parallelo, che sono andate tutta una serie di cose che sappiamo benissimo, dalla banda internet, intendo dalla velocità della trasmissione dei dati, la banda successiva G5, come si chiama? 5G, mi sfuggiva, poi le identità digitali, riconoscimento facciale, tutta una serie di cose che sono comparse, fino appunto a sostituire un'emergenza con l'altra immediatamente quando è finita la questione, cioè è passata in secondo piano la questione del Green Pass, è passata appunto questo discorso della militarizzazione, ma dell'aggressività della NATO, dello scoppio delle ostilità, della guerra da parte della Russia invadendo territori ucraini, eccetera eccetera eccetera, e quindi della propaganda, insomma, diffusa, insomma, capillarmente di questo ultimo anno, dal 2022 al 2023, sulla militarizzazione, dilagare di questa tematica, e non solo, insomma, sulla terrore anche generato da questa, da questo tipo di minacce, ecco. Quello che faranno, insomma, che porteranno in campo i curatori dei giorni e delle notti, che ripeto saranno a Udine per una presentazione della rivista martedì 18 in via dei Rubeis a Udine, e appunto immagino io, poi insomma lo sapranno solo chi, cioè, lo saprà solo chi verrà a ascoltarli, immagino io ripartire appunto da quello che è stato l'esperimento della vaccinazione bio-nanotecnologica di massa, e magari, ecco, io sono riandato a vedermi un po' di cose di cui peraltro avevamo parlato anche in scorse puntate, insomma è inutile che le ripeto, ma voglio approfittare dell'ultimo contributo che si trova sul blog Il Rovescio, nella rubrica Il Fanale Oscuro, che risale a 2 mesi fa, esattamente 13 febbraio, appunto parlava di questo, di questi, era il titolo, era Biolaboratori, e ci si chiede qual è appunto la portata di questo esperimento, ci si era posti questa questione appunto all'inizio del 2021, qual è la portata di questo esperimento? Intanto possiamo fare un primo bilancio, dice l'articolista, e dice: è stato sia un successo sia un fallimento. Perché? Perché da un punto di vista tecno-industriale sicuramente è stato un successo. Come dicevo prima, ha insomma fatto abbassare le difese nostre, insomma, di sfruttati e sfruttate, insomma, su riguardo una serie di critiche e attenzioni che c'erano sulla sperimentazione a livello appunto di genetica, insomma sostanzialmente di sperimentazione genetica, e quindi a livello, dicevo, tecno-industriale è stato un successo, nel senso che una sperimentazione così di massa accettata senza nessuna, quasi pressoché zero opposizione, e ha permesso di aprire 1000 porte, di appunto di fare un guadagno dal punto di vista, diciamo, scientifico, tecnologico, e raggiungendo i risultati non indifferenti, sia però appunto è stato un fallimento enorme dal punto di vista sanitario, nel senso che con tutta la propaganda, con tutta la flusso, diciamo, mediatico che si vuole, le censure eccetera, è difficile nascondere una serie di patologie, anche insomma esiti tragici di questa sperimentazione su persone di tutta l'età, di tutte le fasce sociali. Una notizia, diciamo, positiva è che in questi 2 anni, insomma, è stato possibile approfondire questa convergenza di tecnologie, appunto, vedere, diciamo, in scala 1 a 1 cosa significa appunto tecnologie convergenti, ovvero nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie informatiche, tecnologie cognitive, che appunto puntano tutte su che cosa, alla fine, su questa dualità della scienza e della tecnica, cioè non è più un discorso appunto per pochi questo qui della dualità, ma è effettivamente ogni, fra virgolette, scoperta, ogni passo in avanti, tra virgolette, di nuovo, di questo paradigma scientifico, vale simultaneamente sul lato civile, sul lato militare e reciprocamente e anche circolarmente questo discorso, no? Perché, anzi, in forma di spirale, perché ogni volta provoca una domanda, appunto, sia da un lato sia dall'altro, sia appunto sul civile sia sul militare, il militare per difendere quello che si è guadagnato sul civile e avanti così. Quindi questa cosa qua non è più un mistero, è di dominio pubblico. E quello che è emerso, altro insomma punto importante che è emerso, è che ogni tipo di apparato, appunto, ciascun apparato, diversi blocchi, diciamo, delle potenze statali o imperiali o che dir si voglia, hanno dimostrato, appunto, che hanno mostrato una correlazione con un paradigma riduzionistico. Cosa vuol dire? Verso il vivente. Cosa vuol dire? Cioè che si è visto come è possibile questa, diciamo, come ogni cosa che è possibile manipolare è tale perché è già in anticipo concepibile come un flusso di informazioni tra corpi, sostanzialmente, e il loro ambiente, dove sono immersi questi corpi. Quindi se noi ristrutturiamo, appunto, la relazione tra corpi e ambiente come se un complesso quanto si vuole, ma rapporto di informazioni, di codici, trasmissioni di codici, di cifre, quello che si vuole, ripeto, complicate quanto si vuole, abbiamo comunque ridotto quello che ci circonda a tutto quello che ci circonda, ovvero quello che si dice mondo, a una materia inerte. È un paradigma alla fine carcerario, perché solo in carcere quello che ti circonda è senza vita, e sia quello che ti circonda spazialmente sia quello che ti circonda temporalmente, perché comunque tu non hai mai nessuno stimolo da quello che ti circonda, ripeto, appunto, nello spazio e nel tempo. Quindi paradigma carcerario, cosa bisogna fare? Bisogna rovesciarlo, questo non c'è altro sistema che rovesciarlo, il paradigma carcerario, e quindi ribaltare questo paradigma trionfante di tecnologico, informatico, e rimettere le cose al loro posto, fra virgolette, diciamo, in qualche maniera. Ostacolo che incontriamo in questo nostro percorso per rovesciare è proprio in questo momento, sono proprio questi laboratori, anzi questi biolaboratori, dove assistiamo a un'accelerazione pazzesca della costruzione, ma anche con questa scusa della guerra, insomma, minacciata, ma anche, se vogliamo, imminente. E, ad esempio, si dice, questo fanale oscuro dice che, appunto, in precedenza non è un caso che il biolaboratorio statunitense Namru 3 sia stato trasferito dall'Egitto a Sigonella in Sicilia, non è un caso, in un dettaglio, e grazie ai fondi del PNRR ne sono previsti diversi in tutto il territorio, in tutto lo stivale, a partire appunto da questo di Pesaro. Qua adesso non entro, insomma, nel merito del, ne abbiamo già parlato qualche puntata fa, comunque, di questa situazione, mi sembra, di questa situazione qua, delle delle sperimentazioni genetiche elementi così micro nano virali eccetera, e niente, vi rinnovo, insomma, vi invito di nuovo tutti quanti a questa presentazione, non è una presentazione, questa discussione, questo dibattito con i curatori di I giorni e le notti, rivista anarchica. Sarà di nuovo martedì 18 aprile alle 18 in via De Rubeis 43 a Udine. Ma non avete che fare che rompigo di una gente? Venite qua quando la gente ha bisogno, venite solo quando vi dà rompigo di una a tutti, solo allora venite. Noi non pensavamo di disturbare e siamo venuti a portare la parola del Signore. Ma non siete l'assistente sociale tuo comune? No, no, noi portiamo per la parola del Signore. Ma vaffanculo, tu è la parola del Signore. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band dalla Sardegna, esattamente dalla zona di Cagliari, Mr. Murrungio, e questo è il loro album datato 2010. male sarò io. Come dipinto, mi viene osservato, da pochi rapito, da molti riscatto. Ecco, appunto, in una città come Udine, che inizia già a essere infestata da tricolori e anche da penne nere che appunto collocano i tricolori in ogni dove, molestando così la vista e la coscienza di chi ancora ce l'ha, una coscienza, e abbiamo deciso appunto di organizzare queste due iniziative antimilitariste, e così per riprendere un momento il discorso del che faceva il compagno che mi ha preceduta, presentando l'iniziativa di martedì 18 aprile, appunto l'incontro con i curatori della rivista Anarchica I Giorni e le Notti, e, per parlare appunto dei temi della digitalizzazione della società, della tendenza alla guerra, e, dei biolaboratori, e, insomma, di questa sfrenata corsa verso la distruzione del vivente e dell'umano, e, compagni che organizzano iniziative analoghe in altri luoghi scrivevano: coloro che ci proteggono da certe minacce sono gli stessi che le creano per poterle studiare, le studiano per poterle combattere, le combattono producendone di nuove. E questo, insomma, potrebbe tradursi così anche la vicenda del laboratorio di biosicurezza cosiddetto di Wuhan, e cioè quello che è successo rispetto alla fuga dei virus potenziati, dei virus chimera, che ha dato origine poi a tutto quello che abbiamo vissuto, insomma, negli ultimi 3 anni. Allora, ci sarà anche un'altra iniziativa antimilitarista a Udine, sempre nella sede di Via De Rubeis, nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43, e questa volta sarà sabato 15 di aprile, a partire dalle ore 17:30, e cioè la presentazione di una pubblicazione, potrei chiamarlo opuscolo, che si intitola Nel vortice della guerra, che è praticamente un'integrazione a una pubblicazione di qualche anno fa, che era stata presentata tra l'altro a Udine, si intitolava questa pubblicazione Dietro le quinte, e appunto questa pubblicazione Nel vortice della guerra approfondisce, diciamo, alcune questioni che erano state ampiamente anche trattate indietro le quinte, e cioè il discorso della ricerca, cioè dello svelare, diciamo, come la ricerca con la R maiuscola, cioè la ricerca che si svolge nelle università, eccetera, è proprio ciò che sta alla base del militarismo e della potenza tecnica degli stati e dei blocchi di potere. E le compagne e i compagni che hanno appunto prodotto, elaborato Dietro le quinte, hanno fatto poi questa integrazione dove si parla anche, per dire, del PNRR. E, tra l'altro, per restare al discorso dei tricolori, delle penne nere e delle telecamere, aggiungiamoci anche le telecamere che infestano la città, le telecamere tutte le città. Ma Udine in una maniera veramente spropositata, anche in considerazione delle caratteristiche della città di Udine. Non dobbiamo dimenticarci, anzi vale la pena di ricordare, che ad esempio il PNRR prevede tutta una serie di convergenze tra civile e militare, e a questo proposito le proposte di Leonardo S.P.A. che ricordiamo che a Ronchi dei Legionari c'è una sede della Leonardo che produce droni militari. E tra le varie proposte che Leonardo fa al Parlamento c'è quella di creare sistemi, di potenziare e creare tecnologie e sistemi di cybersicurezza per le forze dell'ordine, quindi tracciabilità, videosorveglianza, riconoscimento facciale, software predittivi dei crimini, eccetera eccetera. E boh, cos'altro dire? Siamo anche in una regione, oltre che in una città, anche in una regione, diciamo, che ha una sua storia di militarizzazione estrema. E, diciamo che ricordiamo le servitù militari di ieri, e ricordiamo che fino agli anni 80 inoltrati praticamente c'era una caserma ogni 14 chilometri, mi pare una cosa del genere, una densità di questo tipo. E ora ci sono molte caserme in disuso, diciamo abbandonate, e c'è però, comincia a esserci anche qui in Friuli il business delle caserme verdi, e poi ci sono tutta una serie di servitù che comunque persistono, di luoghi dove ci sono le esercitazioni, fanno le esercitazioni i militari. E, come ad esempio ricordiamo il poligono di tiro di Caumalnisio nel Pordenonese vicino a Vivaro, e, che è un territorio particolarmente devastato dai militari. Sì, se diciamo non si vive in quella zona, perché magari se si vive in quella zona ci si assuefa, ma se non si vive in quella zona e si va così da quelle parti, succede di vedere tranquillamente carri armati che attraversano la strada, sì, la provinciale, senza neanche un fastidio, insomma. E poi ci sono tutti i vari insediamenti militari, villaggi talebani come li chiamano, insomma cose veramente aberranti, e insomma tutte cose che sono, che insistono in questa regione qua. Ricordiamo anche che prima è stato nominato il discorso del modello carcerario della società, che si ricava da questo modello super tecnologico che diciamo va verso la distruzione appunto del vivente. E, si parlava appunto di carcerizzazione. La guerra guerreggiata, come dire, ad esempio la guerra per procura, chiamiamola così, tra NATO e Federazione Russa, la guerra per l'estrattivismo, insomma per appropriarsi delle risorse. E su un fronte c'è questa guerra qua, sul fronte interno che riguarda le sfruttate e gli sfruttati c'è appunto una repressione sempre più aggressiva nei confronti di chi si oppone a questo modello di mondo, insomma di universo. E ricordiamo a questo proposito che in Friuli, oltre a esserci quello che dicevamo prima, insomma rispetto a questa eredità di servitù militare, questa sottananza rispetto appunto anche al corpo degli alpini ad esempio, ci sono anche in una regione così piccola 5 carceri, quindi un carcere per provincia più un carcere di massima sicurezza che è quello di Tolmezzo, con una sezione di 41 bis, e c'è anche un CPR, quindi non ci manca proprio niente, né sul piano della militarizzazione, della carcerizzazione interna, che né sul piano di quella esterna. Quindi io rilancio gli appuntamenti, questi due appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni a Udine, nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43. Allora sabato 15 dalle ore 17:30 nel vortice della guerra, e martedì 18 aprile dalle ore 18 presentazione della rivista anarchica I giorni e le notti, e discussione sui temi della digitalizzazione e della società e della tendenza alla guerra. E siete invitati a partecipare. No, thank you. I believe I've spent enough time in the company of death. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band londinese dal loro ultimo, secondo album e ultimo dopo lo scioglimento di questa band, uscito nel 2013. Loro sono i Momentum, band political hardcore, e questo è il loro album Herbivore. Yeah. I wonder why they put the food on these little white sticks. Those are rib bones. You mean this used to be an animal? Mm-hmm. What a barbaric world. Bene, questi erano i Momentum, band political hardcore londinese che si è sciolta una decina d'anni fa. Questo era il loro secondo e ultimo album, datato 2013, che si intitola Herbivore. Bene, ricordo che siamo in diretta radiofonica qui dai studi di radio Onde Furlane da Udine. Il programma è Tardis Magnetics e dalle ore 20 alle 21:30 ogni giovedì siamo qui in diretta. Volevo anche ricordare, dato che siamo un po' al termine della trasmissione, mancano pochi minuti, i nostri contatti, anche se ricordiamo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. I nostri contatti, se volete scriverci, potete farlo anche tramite posta elettronica intestando a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo direttamente in forma cartacea attraverso e intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Questa è la casella postale per inviarci qualsiasi cosa che voi desiderate, e sempre se ci sta all'interno della casella, ovviamente, ma comunque a parte quello potete riascoltare questo programma andando a smanettare su internet cercando zardinsmagneticsradio.noblogs.org, anche questo ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org, così potete riascoltare questa puntata ma anche quelle avvenute nei giovedì scorsi. E inoltre siamo anche presenti su Telegram t.me/zardins, e domani chi volesse ascoltare, anzi salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito su Radiazione, che è una web radio, domani venerdì dalle ore 17. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Zardins Magnetics, come già detto in diretta radiofonica, e ci salutiamo ascoltando questa band italiana, loro sono i Black Ball e questo è il loro album Chaos e Disorder. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Yeah. Buon ascolto!